Dimmi che serpi non nascesti, o regina? Perché mai l'innocenza il tuo rigor condanna? Perché mai col tuo sangue ancor tiranna?